Pereira aveva addestrato a lungo il sosia ad ascoltare bene, recitando lui stesso di volta in volta la parte del contadino stremato, del commerciante preoccupato, della vedova affamata, del figlio di papà cotto a fuoco lento. Infatti ne aveva approfittato Manuel il silenzioso, lui che non si era mai aperto con nessuno, per confidare a quell'orecchio mercenario la lunga noia della sua infanzia, l'inflessibilità bigotta del padre, la fiacca stupidità della madre, l'adorazione idiota dei contadini, la loro rassegnazione vile e le loro superstizioni imbecilli. Era arrivato al punto di raccontargli il terrore che suscitava in lui la casa di Ponte, con il suo silenzio e le sue ombre, la sua solitudine assoluta nell'immensità delle terre di famiglia. Ogni volta che l'attenzione del sosia veniva meno, Pereira gli premeva la canna della Parabellum tra le costole. «Esercitazione con proiettili veri», avvertiva. «Essere sosia è qualcosa che si desidera, e un sosia si sostituisce. Basta avere fiducia nella somiglianza». Strano come vanno le cose. Tutto ciò che seguì, fino alla conclusione tragica, è forse racchiuso in quest'unica frase.